Giobbe rispose al Signore dicendo: riconosco che puoi tutto e nessun progetto ti è impossibile. Chi è colui che denigra la provvidenza senza nulla sapere? È vero, senza nulla sapere ho detto cose troppo superiori a me che io non comprendo. Ascoltami di grazia e lasciami parlare. Io ti interrogerò e tu mi istruirai. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto. Perciò mi ricredo e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Ora, dopo che il Signore ebbe rivolte queste parole a Giobbe, disse ad Elifaz il temanita: la mia ira si è accesa contro di te e di tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come ha fatto il mio servo Giobbe. Ora prendete 7 vitelli e 7 montoni. Andate dal mio servo Giobbe ed offrite un olocausto per voi. Il mio servo Giobbe intercederà per voi, affinché per riguardo a lui io non punisca la vostra stoltezza, perché non avete parlato rettamente di me, come ha fatto il mio servo Giobbe. Andarono dunque Elifaz il temanita, Bildad il suchita e Zofar il naamatita, e fecero come aveva ordinato loro il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Quando Giobbe intercedette per i suoi compagni, il Signore cambiò la sua sorte e gli rese il doppio di quanto aveva posseduto. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi conoscenti di prima vennero a visitarlo e mangiarono con lui nella sua casa. Lo commiserarono e lo consolarono di tutto il male che il Signore gli aveva inviato e gli regalarono ognuno un pezzo di argento ed un anello d'oro. Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della prima. Possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe pure 7 figli e 3 figlie. Alla prima diede il nome di Colomba, alla seconda quello di Cassia, alla terza fiala di Stibio. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe. Il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme ai fratelli. Giobbe visse dopo tutto questo ancora 140 anni e vide i suoi figli ed i figli dei suoi figli per 4 generazioni. Giobbe morì vecchio e sazio d'anni.